Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Cari ascoltatori, gentili ascoltatrici, buonasera e un saluto affettuoso, come sempre, da Gesi. E Antonio. Allora Antonio, come stai? Ma discretamente bene, grazie. Bene, mi fa piacere. Sì. E adesso questa primavera è un po' capricciosa, vero? Noi assorbiamo tutto quello che c'è. Va bene, allora... E nel frattempo diamo un cordiale saluto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto in questa nuova avventura sulle ali dei ricordi. Il nostro indirizzo internet è bluradioveneto.it e ricordiamo la possibilità di ascolto in streaming e relativo download della trasmissione. Un saluto naturalmente cordiale al nostro regista e al nostro coordinatore. E mandiamo un saluto particolare a Emilio Gallina. Esattamente, sì, ecco, questo è doveroso. Un pensiero a Emilio. Esatto. E stasera abbiamo un ospite in studio che è il simpaticissimo... E poi non so cos'altro potrei dire di più. È proprio veramente l'architetto Giorgio Fantin. Buonasera, buonasera Giorgio. Buonasera. Benvenuto, buonasera. Bentornato. Bentornato. Grazie, sì. Grazie. Prima di dare la parola al nostro Giorgio, noi ci ascoltiamo la prima canzone in programma, che è intitolata Respiro ed è cantata da Franco Simone. Le cose che sei, fammi fermare il tempo che danza tra noi, lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare. Io vorrei che il mio viaggio di gran vagabondo finisse con te e per noi diventasse respiro quell'esserci amati, annullati, divisi, rincorsi, appagati. Voglio che sia respiro l'amore tra noi, per non piegarsi dentro, per darsi di più. Lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare. Io vorrei che il mio viaggio di gran vagabondo finisse con te e per noi diventasse respiro quell'esserci amati, annullati, divisi, rincorsi, appagati. E vorrei che ogni volta che cerchi qualcosa cercassi di me e per noi diventasse respiro la nostra canzone, diventasse respiro lo stesso ricordo di noi. Voglio che sia respiro l'amore tra noi, per non piegarsi dentro, per darsi di più. Lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare mai. Eccoci di nuovo in studio e diamo la parola al nostro ospite. Intanto complimenti. per il premio, per il riconoscimento? Ma adesso ne parliamo. Va bene, va bene. Allora, a lei la parola. Io volevo soltanto prima il metodo simpaticissimo. Allora, dico sempre di mia madre, mi diceva, ricordati, non ti sei tanto bello, ma tanto simpatico. Ah, allora non ho sbagliato. Mi diceva, non ho sbagliato. Ecco, mi diceva, ora mi sento sempre forte. Sì. San Liberio. Allora, è il secondo anno che la congrega ha istituito questo riconoscimento, non è un premio, un riconoscimento così, un distintivo, una spilla di merito. Perché c'era un premio San Liberale una volta, non viene più fatto da anni, e Bellocci ha detto, guarda, che si chiamava Liberio il San Liberale. In realtà mm-hmm. quando era pagano. E perciò noi facciamo San Liberio, perfetto. Perché in funzione, il scopo nostro della congrega era perché il San Liberale è metà festa che fa i banchi scolari, sì, e basta. E l'altro volevo fare, vedo che se la gente una volta che vedo anche a Gentilini non si riuscisse a fare la festa totale, la giornata totale a Treviso, la festa, perché c'è vicino anche San Marco, tante cose. Comunque, e ora io ho parlato anche con la curia e con Don Rizzo, sono a parlare, detto che ne parlo con il vescovo, ma il vescovo dice che fa solo che di riunioni ecclesiali, perciò noi mica tu facciamo per San Liberale, ma insomma niente. E allora abbiamo puntato sull'auditorium delle scuole Stefanini. L'anno scorso eravamo a Pio X, quest'anno siamo andati a Stefanini perché è più un palco più basso, un attimo più non umano, più contatto con l'uditorio. E cosa abbiamo fatto? L'anno scorso abbiamo premiato 12 persone. 12. E quest'anno siamo, io dico 10 all'anno, se andiamo avanti 100 anni con tutti i trevisani che opera per Treviso, che vive il bene per Treviso, che fa per Treviso, che ne sei ancora, insomma. E che ne viene anche su. Il discorso qual è? Che assieme al presentatore che è Prando Prandi, che è con me il presidente dell'Unione dei Veterani Sportivi, mi ha dato una mano perché l'anno scorso aveva portato Segafredo a questo premio, il quale poi si era impegnato in qualche modo verso l'Adavar che avevamo noi premiato, la Mancini, esatto. E quest'anno ha rinnovato questa sua sponsorizzazione e ha detto, te presentami quest'anno, ti do una mano, la presento io. E ora uno, due, tre, va ben questo, va ben che altro. Il decimo, ho detto, tengomi de scorta, detto, perché vedo se perché il premio va consegnato alla persona, non sì, è che gara sì, un mezzo, se no non delega, nessuna delega. E se viene, se arriva, se può essere presente, mi tengo la riserva del premio. E non cambia niente. 10 spille abbiamo ordinato, preparato, portato e imbastito questa riunione, e di cui ci sono 4 donne. Chi sono? Posso... Le donne sono quella che vende le caramelle in via Palestra, Flavia. Ah, sì, la conosco, sì. Poi c'era la Fernanda, che è la tipografia in Piazza Pola, la moglie del cappellaccio di Dante, tutti quanti che aveva. Sì. La terza era la Natalina Botter, la guida, insomma, fa parte di tutta la famiglia Botter, eventualmente sì. ancora con tutta la sua storia. Sì, esatto. E la quarta, la Maria Pia Giorgi, che è giornalista del Corso, molto valida, molto in gamba. Sì. Ecco, queste sono le donne. E poi Di Nitto sta tranquillo, che se vengo, lui e Gemin, perché se vengo con Gemin, mi ha telefonato 2 volte, mi ha telefonato la moglie che si scusava di non essere venuta, tante cose così. Abbiamo premiato Don Lino Cucinato degli Oblati, perché io era Don Gazzola l'anno scorso, e se venivo anche io, parlare del San Liberale, Tullio Giacomini, che è un amico mio, ma è quello della cooperativa di Quadrifoglio. Ah, Quadrifoglio, sì, fondatore. E dopo ha una orchestrina di giovani, di tanti giovani, che va bello a suonare per le chiese, sì. Fa cori, perciò uno che fa volontariato vero e proprio, anche di persona. Esatto. E poi Mosele, che sarebbe la parte sportiva, insomma. La parte sportiva non era un trevigiano, era Mosele, però ha fatto per Treviso i campionati mondiali, ha portato a conoscere Treviso, la parte, chiamiamola così, sportiva, assieme a Benetton, assieme a De Longhi, assieme a, insomma, Mosele, anche pur essendo da fuori Treviso, dello sport, l'abbiamo preso. Ma per esempio la Flavia delle caramelle, da Zegna Camignua. No, ma dico, perché è stata premiata, per quale? Perché il premio dell'operosità trevigiana, cioè chi che è trevigiani che lavora in Treviso. Questa qua da 14 anni comincia a lavorare, e è ancora che lavora, insomma. Ho capito. Difatti non ha potuto venire perché il figlio si era ammalato e nagavo su a Sarverto a bottega. Allora chiedomi, signori, qua mi trovano in imbarazzo noi della Congre, perché è doveroso partecipare, ma siccome stiamo premiando dei lavoratori, degli operatori della città, possiamo delegare, fare una delega quest'anno e consegnarla, mi va via un botto a consegnarla, un'eccezione quindi, perché vado sul posto di lavoro a premiarla. Sì. E ora tu dica, ho fatto un applauso, insomma, insomma. E ora si è fatto un cadosso un momento, insomma. Allora, se questo è il premio, poi e questo è un premio, allora mi hanno, io ero l'incognita, il punto X, il punto di domanda, sì, quello che c'era, e mi chiama a me, non neanche proprio, non mi attendevo, e dopo non vengo, no, in su, e mi ha premiato Zanini, che ho chiamato il singolo, che era Vittorio Zanini, così. Ah, sì. E l'ho fatto con spirito di eccitazione, notivo là. Il sabato dopo, che sabato dopo, noi fine mese facciamo subito un incontro della Congre, ma l'abbiamo rimandato al giorno 3, e ho portato questa mia spilla e l'ho consegnata alla Congre. Io ho detto, non mi sento di prendere un premio, mi come Giorgio Fantin, per la che opera per la Congre, perché è come premiarsi e sbrodarsi fra noi stessi. E come che detto, mio, il panettiere pezzato che mi sia anche morto, e mi porta il pane sempre anche a forma del cuore quando sono liberale, e poi va a comprarsi il pane in un'altra parte, se da stupidi, insomma. Sì, no? sì. E perciò lo consegno al priore, a Dichiara. Gli dichiara che, guarda, beh, questa spilla l'ha messa in scarsia e si era portata a casa, è fatto depositata alla congrega, insomma. Bene, adesso ci ascoltiamo la seconda canzone, è cantata da Ornella Vanoni, così un po' allegra, Non sai fare l'amore. No, qua. Sei uno schianto, non ti resisto più, però non sai fare l'amore tu, per fare fai, ma non ci sei, prendi le mani, che stupende mani hai, invece no, le muovi proprio male, sai, non vedi che sono su me. Poi troppe braccia, le sento dappertutto, chilometri ne hai. E sei troppo sano, lo so che questo è un bene, però ad un pensiero un po' sfacciato, magari un po' malato, non avrei detto di no. Forse la guerra la sentirai di più. Certo che no, non sai fare l'amore tu. pensare che c'è tutto in te. Poi non stai attento di bacimi violenti, ma quanti denti hai. E poi sei troppo buono, pensi sempre bene, però se tu volessi appena appena variare un po' sul tema, qualche ideina l'avrei. Certo al pallone tu renderai di più, però non sai, non sai, non sai, non sai fare l'amore tu, anche se ti dico di sì, e anche se ti dico di sì, anche se ti dico di sì. Ed eccoci di nuovo in studio con il nostro ospite. Eccolo qua, Giorgio, allora a voi. Allora, vi ho parlato di questo San Liberio. Lo faremo anche il prossimo anno, perché abbiamo la conferma da anche delle persone che ci daranno una mano, e lo faremo sempre volentieri. C'è già qualcuno che mogugna, ho avuto amici che mi hanno detto cosa ti ho provato io, come l'ho fatto. Risolto il problema in seconda battuta. Non dico neanche cosa che ho fatto, non dico adesso. In seconda battuta, per me io l'ho risolto, insomma. Bene. E poi la domenica avevamo la segreta di San Liberale. Allora, abbiamo imbandierato tutto il Battistero, la piazzetta del Battistero. Ah, sì. Che dà sul Calmaggiore. La facciamo là ogni anno a ridosso del Duomo. La imbandieriamo. L'abbiamo imbandierata. Alle 10 non pioveva ancora. E un mese e mezza era qualche piova. A mezzogiorno viene scravasso. Dopo che ci sa. Cosa facciamo? Aspettare fino all'una e mezza, l'una insomma, e dopo abbiamo deciso di vedere il pomeriggio oppure di fare il giorno dopo. Allora nel pomeriggio mi sono dato, scritto ancora i fax, le cose che faremo il giorno dopo, ma il giorno dopo vivevo stesso insomma. Allora avevamo dei dolci di Amoscoeta, cioè, che l'avevamo mangiato a pezzettini così, e siamo andati con lei a mangiare in piazza a bere un'ombra da Beltrame. Ah. E il giorno dopo l'altro dolce che preparava, siamo andati da Moscovita sera e sera, sera tutti qui da Congra, siamo andati a bere l'ombra col dolce. Dov'è sta Moscovita? In pescheria, sì, proprio quindi fronte. Ex Muscolis praticamente. No, siamo ancora Muscolis. Da Muscolis. Muscolis all'inglese. La moglie, sì. La moglie e i due figli. I due figli, sì, sì. Esatto. Era simpatico lui, era. Era Muscolis. Simpatico, sì, cioè sì. Diceva, vede Franco Caseato che dice, ciao. Come sono andato l'incidente, perché aveva un tumore, come sono andato l'incidente, la Casato la contava lui così. Qual è l'incidente? No, mia voce, siete, non temora mia dirmi che ti sei nato con quel muso e hai. Uno spirito feroce. Una cosa, poi un'ultima domanda, dammi un panino qua a coppa, se ti arriva primo. Tutte che robe, hai le battute pronte. Sì, simpatico, sapeva, allora, sì, sì. È mega dito una formazione della Juventus. Juventus. Una per una, non te credo, allora, scrivimi, facciamo una cosa, sono da vedere, aveva ragione io, si ricordava tutti i Muccinelli. Straordinario. Ecco, questi personaggi proprio trevisani doc, che ha fatto la storia di Treviso. Sì. C'era anche Joe, che cos'era, un pittore, mezzo... Joy, sì, forse con un iniziale diversa, Toe. Toe, una volta porto con Garatti, questo vece 9 starie Treviso. E ora sai, se invece è del 30, forse 40 anni fa, e là troviamo tutti i veci, queste qua, Orlandina, sotto il portico, tutte queste cose qua, dal freddo. E dopo io ho fatto una mostra per Toe. Ah, sì, era un pittore. Sì. Anzi, vi porterò, bisogna che mi ricordo. Sì. Godi cataloghi, con 10-15 cataloghi ancora a casa. Sì, ai Cararesi, che ho portato, conoscevo Saiti, il Fiore con il suo saetti, il pittore vero, che ha portato quadri grandi come così, che ne stava neanche i Carraresi. Gemini ha portato delle sculture, insomma, delle persone sono andate a Padova da uno e mi ha detto: ma mica un musica che mi ha venduto, dottore. Poi non ho mai venduto musica. No, io scherzo, io faccio, no, non scherzo. Mi dica io che sta scherzando. E arrivava su in studio, finché non avevo comprato un quadro andava via, mangiava, beveva. Racconteremo di Toi, perché Toi è una figura. Un personaggio. Sì, sì, fatto sì. Con il suo Dova, con il suo Minieco. Amico insomma, di Alfredo Marchiolle, del dottor Fanzago, che altri personaggi. Sì, Fanzago, insomma, Marchiolle abitava vicino. Dove che abitavo Mila da dire stadio in Castel d'Amore. Dottor Fanzago era un personaggio dell'entourage di Marchiolle. Pensavo che fosse il medico Fanzago. Era medico. Fanzago, sì. Coso, come si chiama? Adesso suo figlio mi pare che lavora Marchiolle e Trevisi e Paolo Trevisi sì. Tre che batteva. Sì, e so che appunto quando andavo a lavorare sentivo visto Toe. Che ne parleremo musica. perché ne parleremo. Bene. Continuiamo con allora, l'esposizione. Una volta, Gosauo, è giusto, a San Liberae non manca mai un fortunae. Quindi praticamente... E abbiamo quest'anno, l'anno scorso, cosiamo in via alle 6:30 di sera, qui poeti che si sconto da qualcosa sotto. Abbiamo tutto bagnato, portando via, siamo là. E un anno, mi ricordo, Mimi Soio, che mi cascava tutti i fogli, tutte le locandine che avevo piccato, staccato, il battistero, mi cascava tutto, ero lavato a testa in piedi. Ma tutti gli anni piove? No, l'anno scorso e quest'anno, è un anno, per mantenere 7-8 anni fa. Diciamo, ecco, sì. Ecco, se posso continuare, sì, vorrei sì. raccontare, cioè, mi è mancato un amico, ho visto... 4 pagine sul Gazzettino e ho assistito a vari necrologi sulla stampa al funerale con tutti gli alpini che sono venuti da tutto il Veneto, insomma. Allora, ci saranno stati perlomeno 40 labari con la tromba che suona il ricordo di Francesco era un figlio di una buona donna che sabato aveva partecipato scorso, non sabato, l'altra settimana, sì. Aveva fatto con noi la riunione della congrega e parlavamo di Buranelli. Ho detto, bisogna, Francesco, ti interessi di andare a una banca dove ti conosci, magari se ne riusciamo a avere 500 euro da qua o 500 da là, perché ne serve, perché siamo sempre sotto. E lui ha detto, telefonami lunedì, che così te mi dici, mi ricordo, così ne parliamo. E poi doveva consegnare un libro di Pinocchio, di figurine di Pinocchio, di Mattiello nato. Mattiello mi dice giovedì che ho trovato, esendale lunedì, che ha dato il quaderno, e doveva vedersi martedì mattina. Il martedì mattina mi ha telefonato la figlia alle 9, che ha detto papà, hai 4 stanotte. Improvvisamente. Ha avuto, un attacco e è partito. Ci ha lasciato, mi ha detto la moglie, e ne gassa anche Seuda. Ha ragione. E non è anche Seuda, neanche noi altri che non è Seuda. Quanti anni aveva? Aveva la mia età. Insomma, la mia età, classe atomica, noi siamo 37, classe atomica. Era ancora giovane. Sì, ma aveva avuto un incidente, era stato investito da una macchina, non si era ben mai più ripreso un pochettino. Era presidente della sezione alpini per 10 anni, sto presidente di Treviso. Io ho messo a posto la sede in via San Pelaio, eravamo buoni amici, lui era aveva con Arcari, editore di Mogliano, era da Mogliano, lui, papà aveva una pasticceria in centro a Mogliano, aveva iniziato anche a giocare a rugby, aveva iniziato fondando il Mogliano del rugby, non ha mai forse giocato bene, ma insomma si è sempre interessato di tutto. Con noi ha fatto anche una casa editrice Castello d'Amore, ha fatto dei libri, abbiamo fatto dei libri con Treviso Sotterranea, e li ha editi lui, ha editi anche il libro di giochi per grandi licei per sì, sì, un uomo di cultura a tutto tondo, quindi, a tutto tondo, disponibilissimo, bravo, e sapeva dove andare anche a vedere le robe, sì. Sapeva, era conosciuto anche da sia in banca sia i vari politici o meno, perciò lui era che si presentava, sapeva di che professione esercitava. Ma, non lo so cos'è, lui veniva nel 70 verso 74 sì, sì, sì. E lavorava con la tipografia Arcari, probabilmente andava in pensione con l'Arcari, insomma, certo, penso. Certo. Dio, che origine era? Da Mogliano. Ah, Mogliano, sempre Veneto. E poi quando che ha fatto la cosa, quando che ha fatto la manifestazione della durata del Treviso. Ah, Treviso, sì. Dico, lavorare a Parigi, cioè al Coabate, che mi ha fatto la fontana dei tette di legno. Ho fatto credo ancora, gli anni ancora in baruffa per non più pagare, ma comunque tutte queste cose qua. E dopo per mio cognato gli ho fatto fare un cappello degli alpini che bisogna che collegare forse proprio famiglia Gianardo, insomma la mia sorella. È stato un successo straordinario quello donato, è straordinario, sì. E poi lui era un disponibile, dava una mano a tutti, come che poteva dare una mano a tutti, insomma, perciò oltre che amico, oltre facendo parte di Accomoria qua, così se udava sempre volentieri. Posso tu farmi delle fotocopie a colori? Sì, ma quante? Do tre, come le faccio a fare 20? Perché costava schiavi andare in qualche parte. Ma Francesco un persona amico, veramente, insomma. Ecco, ho visto l'affetto, perché a chiesa gli era anche infelice per le mantenere le persone, insomma, che gli era, insomma. Esatto. Sì, perché sì, ma anche proprio la copertura dai media, della stampa. Soltanto è una bella giornata di sole, sì, e sì. C'è anche il sole fuori. Ma che parrocchia era quella? Santa Maria Maddalena. È piccola, sì. Non l'ho mai vista. Lui abitava in via Cadore, nella strada. Sì, sì, sì. Vabbè, ci fermiamo un momento per ascoltarci un'altra canzone, la terza canzone. Da che titolo? Cercavo amore. La canta Emma Marrone. Andiamo sul moderno, moderno, dai. Sul moderno. Sì, esatto. Yeah. di nuovo in studio con il nostro ospite. Ecco, a lei la parola. La parola. Sì. Le racconto adesso il mio menù della prossima settimana, se vuoi. Parole, sempre parole, parole, parole. E mangiare quando? Eddie dice che c'è da mangiare bene, ma non si sa. E allora, mi telefona ieri il barbier, mi dice, luni ai 7 al Corner Sparasi. Lui abita a Quinto, sì, e non si mangia quelli di Cimadolmo, ma si mangia quelli di Badoere. Badoere, sì. E queste tutte specialità. Mi sono, da un pazzo, mi sono legato a un ricordo sempre di Bassano, quei De Bassani buonissimi, bei, grossi, buoni, fragili in bocca, tutti quanti. Poi senz'altro Badoere, Morgano. E dopo tu di Cimadolmo, che adesso Cimadolmo, gli si era fatto una bea pubblicità, e perciò esatto. E allora si trova tutti quanti i lavoratori là della Fondazione Casamarca, gli idraulici, le robe, e si mangia, ne offre di sparasi ogni anno, c'è la cena di sparasi. Di lunedì. Anche qui della Casamarca vengono. Ci sarà l'ingegner, penso, che sia un pezzo che non vedo, mica ho finito di lavorare, perciò non mi sono. Ma c'è ancora lo stesso ingegnere, che tipo, non so come si chiama. Semenzato. Ah, sì. Sempre. Piero Semenzato, sì. Il responsabile di tutte. Lo conosci tu? E così, niente. Sì, niente. Allora, e dopo ricevo, subito dopo, in una un'altra telefonata, Giorgio, quando sei tu libero? Prossima settimana, Gioba, Venere, luni sono impegnato, Marte, Gioba sono libero. Beh no, Gioba sono libero, e ora faccio i sciosi. Tirate, ciami, vengono a me, ciami questo, siamo in 10, andiamo mai a Sant'Andrea, prepara lui, che oggi bisogna levarli da capo, li fa in modo meraviglioso. E arriva da Modena, che partirà, sarà belli grossi, nostro, belli grossi. Sì, il figlio di un nostro amico De Bassan, Livatoli, là così. E ora mi ho detto giovedì perché compie gli anni. Chi? A proposito, sto a mio amico, ma a proposito, il giorno prima li compie la moglie. Ieri compie a maggio. 15 persone, 16 persone che fa il compleanno. È impegnativo dal punto di vista del fegato, dello stomaco. È un calendario di Giorgio. E lei quando lo compie? Quando li compie? Agosto, mi sono Sol Leone. Sì. Ma mi ho un calendario di Giorgio che segna tutti i compleanni, gli anniversari, insomma, mi ricordo ogni tanto. Insomma, diciamo che il recupero delle tradizioni passa anche e soprattutto attraverso questa convivialità. Schieso un Trevisan, me lo faccio mi proprio, faccio un lucido, che sono tutti i nomi, e dopo insomma. Insomma, allora lunedì alle 7 mangiare i sparasi. I sparasi. Gioba, alle 9 di sera, andiamo da mangiare i sciosi. Dopo? Venerdì devo portare il gruppo di veterani sportivi a vedere l'India, che merita. Io la mostra che ti ha visto dell'India, sì. Perché la Cina e il Tibet sono andati abbastanza, bene. Però il discorso mio è affascinante, ma non è che entra nella nostra testa. Nostro mondo, sì. È un altro mondo, lontano. Bello, io dico, ceramica, ma che bella, anche ceramica è più bella. Sì, non, quindi non forse, so, forse è difficile. Cristalli, robe, che è tutto quanto. Mm-hmm. Invece l'India, essendo stata sotto anche il dominio inglese, ha delle cose più visibili, più sentite vicino a noi. Mega piazza, e porto volentieri Adriano Madro, non so se mi aveva promesso che vieni a Raga, telefonerò. Sinologo, illustre, professore, eccetera, eccetera. Ecco, un altro da premio universitario. Curatore, grande curatore. Giustamente. Ecco il discorso. E dopo, sabato, è sempre, con la moglie stavolta invece abbiamo da dare dal signor Mosele, che deve fare inaugurazione alle bandiere, non so di cosa, di un parco che ha fatto. Dove, a Quinto? Verso Lovadina, fatto un recupero eccellente, eccellente, e tu venite, e allora invita a pranzi con la moglie, mi con la moglie, e andiamo a vedere cosa che devo. Settimana. Ma parlando sempre di mangiare, come si diceva, mi risulta che è un simbolo dell'eccellenza culinaria trevisana, che si sembrava dovesse chiudere definitivamente, non chiude. a seguito, diciamo, di un'iniziativa vostra, mi pare di ricordare, e c'è un cambio di gestione previsto e quindi non chiude? Sì, no, neanche prima non chiudeva la sua attività. Esatto. Carletto Campeol, appunto, ha sofferto quella sua gestione, ha sofferto perché non era un preparato manualmente, culturalmente, di poter gestirlo. Proprio, cioè, sì. I genitori, grazie a Dio, abbastanza, quando che la mamma andava in cucina a seguire il primario, non andava più in cucina, si era trovato smarrito. Quando che ha deciso, mica ho detto a mio fratello, che è suo amico intimo, sì, e va sempre a mangiare là, dai che facciamo una cena, metà 30, diciamo, 30 diciamo, andiamo a fare l'ultima cena, mi preparo, ho già fatto una fotocopia dell'ultima cena e affermiamo tutti quanti, ecco, cose. Era anche sulla stampa, devo dire, perché sì, mi ricordo, sì. E ora questo discorso qua, mi dice, assieme sta mio fratello, perché si incassa Carletto, si incassa col mondo intero, e perciò non dobbiamo da saccarlo, insomma. Lì che scrivo due righe al papà e a mamma, e a Carletto e alla Francesca, sua moglie. Una metto sulla cassetta delle lettere, una che metto sotto a porta del ristorante, e sento Carlo che mi chiama, mi dice, sai, tu, mi sono impegnato, non posso, forse a mezzogiorno fare i pranzi, già cenai, gli ultimi, va così. Cioè, vogliamo fare una cena, dice, facciamo una bicchierata di chiusura. Allora mi telefono un giorno, venerdì, a luna, e tu vieni qua e facciamo una fetta di soppressa, facciamo un crostin col bacalà mantecato, facciamo doppine con magari un sugo di verdure, e beviamo insieme. E ora mi facciamo tutti i vecchi da rugby, da giocheo. Sono andato a Casiera, uno che ha 86 anni, 80, Baldani, 82, tutti quanti, perché Ristorante Beccherie era la sede del rugby Treviso, oh, ecco, dal 28, ecco. 28 sì. 1900, io ho una tessera di Berto Secoli, che era la sede. Berto Secoli, papà di Mario Secoli. E andavamo sempre anche me, ho fatto tantissime cene, era l'Oca Bianca e Beccherie, gli unici ristoranti di Treviso una volta. La Loca Bianca c'è ancora? C'è ancora, ma il figlio sempre, perciò senza tipo gestione Campeol. Sì. E allora andiamo, ci sono anche mamma e papà, tre tavoli preparatissimi, molto bei, seduti, mi pensavo di fare un brindisi in piedi, sì, ma già crostini di Puente Abbrustolada col baccalà mantecato, ma messi, no, uno solo, messi ai piatti, perché mangiamo sette fette di soppressa, così. E poi invece arriva un risotto con i piselli di Peseggia, ha detto la moglie, lì che ha fatti la mamma di Carletto, lì che ha fatti panno altri. Peseggia, in effetti, mi sapevo che una volta i bisi di Peseggia erano i primi e i piboni, insomma, ecco, così. Ghemo, niente formaggio, ma abbiamo finito col tiramisù. Ah, ecco, allora, mi pareva strano che non fosse. Abbiamo bevuto vino bianco, rosso, acqua, il caffè, e bicchierino anche di amaro, che io avevo fatto le fotografie con i cellulari, così. Eravamo i 25 e abbiamo nutrita e abbiamo chiuso la cosa, pagare, fammi fare, quanti scherzi costa? Niente, siamo ospiti della famiglia Campeol. Bene, e ora, sì. Ma fatto comunque anche hanno chiuso il beccherio o no? Hanno chiuso e adesso è chiuso, cioè lui ha chiuso l'attività e cerca o cercava o ha già trovato, mi pare che ci fossero degli interessamenti, di interessamenti, anzi sì. Mi pensavo che, anzi, che avevo saputo che si era concordato con quello del Cordare, con il vincolo di mantenere il nome, sì, naturalmente, sì, sì. Ecco. Sì, però non ancora ne si era, ho sentito che non si era perfezionato ancora. Bisogna che mantengano più o meno. Beh, devono mantenere il marchio è fondamentale. Ma il discorso è sempre soldi, abbiamo fatto i conti della tasca, no? Altri. Tre in cucina e tre in sala. Una cifra. Sei per. È subito fatto, insomma, matematica non è un'opinione, giustamente. 60 euro? sei persone, che costa 40 euro o 40.000 al mese. Una cifra spropositata. Costa soldi, insomma, bisogna che abbia 30 persone al giorno, 30 persone al sera. Occorre un nutrito partecipazione. Perché il personale costa. Perché anche Reis ha cambiato. Sì. Mi vorrei farla, dopo vi conterò se riesco. E fare una mostra di De Giorgi e premiare anche Reis, che merita che l'uomo è. Era il Ponte di Ferro? No. Il Ponte di Ferro una volta, sì. Sì. E tanti giri adesso, perché hanno aperto anche un'osteria che si chiama Carraresi, proprio dei Carraresi sotto l'affitto della fondazione là, che guarda la pescheria. Guarda la parte di là. Sì. Era come l'entrata secondaria della cosa. Mm-hmm. E hanno aperto due stanze, bar, insomma, cambia, viene, arriva. Sì, sì, cioè, occorre chiaramente una continuità di clientela per riuscire a mantenere, per perché insomma è molto impegnativo dal punto di vista dei costi, eccetera, eccetera. C'erano delle trattorie molto modeste tanti anni fa, inferiore. Era un altro mondo, chiaramente. Si ricorda da Rondinella? Da Rondinella, sì, ma era come spago del gomito, tutti imbriaghi, andava di qua e di là, era tre da una parte, tre da che altra. Noi andavamo a mangiare durante la pausa del lavoro, e allora c'era l'Italia. Biselli e sì, e dopo, sai come si ricorda come si chiamava dopo la Rondinella? No. Poi aggiungo adesso, ovviamente. Andavo a mangiare in quel tempi là, ma sì, dopo. Più davanti era Tony Spin. Tony Spin, ma cosa c'è? Che dopo l'unico errore di Alfredo Beltrame, che mi sono nome Papagheno a un certo punto. No? Papagheno. E che accavi i soffitti, che c'è poi adesso come adesso, a vista il tetto, e mi sono nome Papagheno perché sembrava chissà cosa. Ha sbagliato in pieno perché tutti conoscono Tony Spin. Sì, è ritornato sì, Tony Spin. Esattamente. Di qua che era Aidoche. E dopo che era dove che i Cortelli adesso, che era un'altra osteria che non mi sfugge il nome, sì, so che ce n'erano parecchie di questi templi della trevisanità, sì. Invece la torre, la torre che è carissimo, è resistito, la torre dove era Reis? No, la torre qui via inferiore, da quelle parti là, sì, più avanti, proprio a fine via inferiore, sì, è Reis, sì. Vabbè, allora ci fermiamo un altro momento per ascoltarci un'altra canzone, che è precisamente Vivrò, cantata da Milva. Oh, yeah. Non è l'aria ed il sole che mi danno la vita, ma il tuo amore per me, la tua fede per me, se ancora più azzurro il mio cielo, è per te. Sognare Ed eccoci di nuovo in studio con il nostro ospite. Prego, Giorgio, ci parlerà. No, di... Volevo continuare un discorso della via inferiore, o la strada dell'inferno, si chiama. Perché? Era strada dell'inferno, denominata la strada dell'inferno. Come che inferiore alle, ancora sulla mappa catastale, via Campana si chiama via delle prigioni. Hai capito. Perché c'erano le prigioni in piazza San Vito. La inferiore è una bellissima stradina, simpatica, adesso l'hanno anche tramezzata così non passa più le macchine. Sì, sì, infatti. Perché cominciava con il bar Rialto, dove i giganti, mio papà una volta mi faceva portare una roba, mi portava i giganti, non avevo trovato, mi si arriva nei tipi che pedana alta così da Dio, Maria Moyer. Inanetti, sì, adesso Inanetti si è passato in piazza adesso, una volta era Inanetti, ma poi che c'è il bar dove va mio figlio. Dopo De qua che era l'osteria, perché l'osteria che andava si chiamava con un altro nome dopo che finivo, non mi viene in mente. Peccato che abbiano distrutto queste osterie. Come si chiamava? Italia si chiamava? Non mi ricordo come si chiamava, tipo un nome di fiore da dopo ha chiamato. Mm-hmm. Dopo di qua davanti che era l'osteria dei Dooche. E i Dooche era Dosso Re. Si è messo i Dooche e a moglie del macellaio di piazza di Piero Sardi di via a Luisa, sì, sì. È ancora a casa adesso, insomma, Luisa ti aveva trovato, è simpaticissimo, andai in UEA. Dopo io a Tony Spin davanti, Tony Spin. Che come vi ho contato che ha sbagliato, mio papà, mia mamma mi mandava a cosa il venerdì qua a Pignatea a comprare il baccalà a Vicentina. Buono. E era sempre 3-4 che faceva cuore, cioè, si entrava e ne dava e venivamo pagando, venivamo via ogni sabato a Tony Spin. Dopo di là era e 4 corone. Ah sì, ecco quella non mi ricordavo più. 4 corone con Tony Castaldeo. E dopo adesso, dopo di là avanti che era le Brigate Nere da Chiappa in via Bianchetti un nome dove evocativo perché il tempo di guerra i fascisti erano dove che i carabinieri adesso e ora che l'osteria là di Chiappa che chiamava i Brigate Nere, certo. Dava Brigate Nere, certo. Che va fuori fino al battistero del Duomo. Sì. E dopo si veniva Reis, ma prima che era un'altra osteria, prima che era la gestia anche di Trevisani, professionali, Battaggia, Perusini, Adeonghi, la gestia Eori, dopo sta Trevisanello. Anche Trevisanello, sì. Mirko Trevisanello, no, che gestiva Trevisanello. Cosa, e vi racconto dei 4 corone ora. Sì. Andiamo a Trieste. Conoscevamo Statosa, che dovevo conoscere a me, e diciamo, cioè, bisogna tenere procuri anche altre amiche, domande, dice che andiamo a ballare qualche cosa. E ora il giorno dopo a trovare una cosa, ha negato a trovare le sue amiche, ne ha presentate, siamo da Imania Sistiana, ma va benissimo, e dopo se veniva a trovarne a Treviso, e detto, se veniva a Treviso vi portiamo a mangiare da Alfredo. Okay. Perciò vuol dire che era anni 62, 63, 62 che scominciava il freddo, insomma, perciò io conosco abbastanza, pensa. E perciò 63, 64, Alfredo era già conosciuto allora, 64. Sì. Alfredo cosa Beltrame. Facciamo? Alfredo Beltrame. Alfredo ha il coso in via Rialto. E ora, noi altri, siamo andati a Tony Castaldeo, ti diceva stasera ti chiami Alfredo. E portiamo queste tose e arriva dentro e ha mesi alpini, mesi piena di gente così, mesi agli alpini, 4 corone e guarda così, cioè, e se sentiamo su un tavolo e si veste e si cava il quattro che aveva tutto il vestito lungo fino a con, mamma mia, dove andiamo Coco Fasso? Dove andiamo queste cose? E ora ne dice, ma pensavamo che fosse un locale più più rinomato, per rinomato esempio, pensiamo che fosse più alla pace va de moda così così, vieni qua Alfredo, portane da mangiare con Tony Castaldello, simpatico Tony credito. Castaldello sì. Conoscevo io anche qui, io vorrei essere dove definivo, perché le persone da premiare, da lavorare in pace, sì. Solo che saranno 5-6 anni che non c'è più, sì, che si aggancia per i campioni, che le persone sa che opera per Treviso, che ne sei tante che ne memoria storica della ristorazione, sì. E tutto quanto, del modo di vivere trevisano, sì. Insomma, ecco. E la via inferiore appunto era una strada che ne portavano altri di compagnie da piazza, uno, due, tre, se contavamo, stavamo 5-6, facevamo il giro di 4-5 osterie, uno pagava una parte, uno pagava l'altro, l'altro si giuntava e pagava così, e era un modo di vivere la città. Adesso la piazza è morta, perché non c'è più, ci sono tutti questi bar eleganti, ma no, anche nel nostro sport, no? La piazza era il nostro posto, ma difatti anche mio figlio negli anni 80 75-80 era Piazzarotto, sì. Cioè, noi degli animo sentai, non so se ve l'ho detto io, noi eravamo segnalati in questura nottamboli non molesti, perché eravamo sempre in piazza sentati sui gradini della Teresona, stavamo fieri 2-3-4 le notte, nottamboli non molesti, sì, perché eravamo, diciamo, che ti va su quell'albergo, vado a mangiare al ristorante e beccheria che aveva sempre robe da sale e le finiva, e se stava davanti era il bar KO con Gino Giudici, perciò c'era, sì, una vita di sera, un clima molto diverso, sì, naturalmente, un clima da quello più attuale, più godereccio, diciamo, dai, sereno, sì. È un clima che c'è una parola soltanto per la nostra, noi siamo ormai diventati sul ciclo dell'inciviltà. Ne manca l'educazione, Gesi, ne manca, sì, l'educazione, la parola educazione raccoglie tutto, purtroppo. Adesso tutti ride, piange, siga, parla, sa tutto, sì, che sono sbraitare, l'educazione, certo. È quella che negano i nostri genitori con qualche ciaffone e qualche maestra con la bacchettata, esatto. E bisogna che sia, adesso se è un bambino che dà telefono azzurro, è proprio uno stravolgimento di una, anche di casa nostra, parliamo con voce alta, mio figlio, cioè, parla piano, siamo qua a sentirsi, siamo ma piano. C'è la mania del alto, del forte, la musica della, la mettono forte, ecco, dei rumori, ecco, non capisco perché i locali bisogna sempre che sia tanto musica alta. Non so per perché. Per stordire. Le nostre musiche di Amina, che al tempo era tanto melodiose. Sì, era una cosa piacevole. Claudio Villa che andava a fare il finale, altro, sì, ma sì, sì. Se sente Arbore, mi diverte anche adesso. Assolutamente, un'eleganza che adesso sembra dispersa. Adesso sei tutto. Quando si casco mi sa a bar staccati. Martellamento, sì. Se finio, perché uno dice, cioè, siamo di parlarsi, dopo viene un altro che passa, dopo sola si sente come passare i campi, tutto. Cambia un modo, sì, di vivere. Sì, esatto. Però è cambiato in maniera negativa, non positiva. Senz'altro è cambiato. Per loro sarà positiva, per carità, però. No, ma il fatto è che probabilmente, anzi sicuramente, è un modo per stordirsi, per non pensare. Ma per non pensare ai giovani, cos'è che non devo. Pensare a una situazione che probabilmente li vede, insomma, in. Così, questa precarietà, io non riesco, non resisto a ascoltare più di decisamente. Mi dice che i giovani, non voglio né parlare bene né parlare male, ma i giovani, se già 30 anni ancora i giovani, no, altri a 18 anni, insomma, si cominciava a essere, io lavorare, perché anche nei periodi dalle scuole, insomma, il periodo estivo, ognuno di noi andava a trovarsi un lavoretto. Mi lavoravo al mercato a frutta da un zio mio, e i miei skate era per l'inverno, ma trovavamo tutto, non c'è più i mestieri per strada, come mai non c'è i mestieri per strada? Ma tutti no, sparito, cioè, sparito avendo i caramei, avendo i bolli. Esatto. E questo era un modo anche per, come dire, di socializzare e compagnia. Strasse e ossi ferroveccio. Adesso mi vergogno perché una cassetta dove mi serve per impissare il fuoco del caminetto. Torno su, mi vergogno. Per carnevale, quando uscivo dal lavoro che prendevo l'autobus, c'era sempre quella delle stelle filanti. Sempre, sì. Sì, era una cosa più... Sentivi, no, ecco, sentivi, avevi il sentore delle... Ma erano le campagne, male che andasse, c'era quello che andava a pasto coe oche. Ognuno al suo mestiere e nane a pasto coe oche. E mi dice di io, gli animalisti dice che vi faccio delle cose incredibili. Una volta ieri a cavalchine, i feste, il carnevale, se faceva carnevale vero e proprio, insomma, se viveva con i carri che faceva città di Treviso, no, qui da, che viene da fuori. Sì. Adesso non ci sono più neanche le zampogne per, in dicembre che vengono giù, non c'è più neanche quello. No, è stato un... Perché che forse c'è qualche ordinanza. Ordinanza. Presumibilmente. Però se tu passi da qui, senti tu questa musica alta che... Diciamo che è il problema proprio di un sfasamento, di uno spaesamento generalizzato e quindi... Secondo me bisogna, dopo che siamo diventati una società, bisogna ritornare a essere una comunità, come che se era una volta in epoca preindustriale. Non è facile. È difficilissimo. Sarà difficilissimo. Non è facile. Decisamente. Non è facile perché anche noi, la nostra famiglia, siamo scesi a compromessi, logicamente, con i figli nostri, qualcosa. Perché? Perché i nostri fiori hanno vissuto sulla nostra... vita bella che abbiamo fatto noi e noi abbiamo cercato di dare quella bella, però non farli insegnare il lavoro. Questo è stato un errore clamoroso. Il lavoro è clamoroso ed è proprio questo. Non c'è più un calzolai, bisogna andare a cercarli con l'anternino. I falegnami, lo stesso. Le scuole professionali sono state spazzate via e tutto quanto così. Adesso tutti studiano e di conseguenza vogliono andare a fare l'impiegato. Sì, ma occorre imparare. Cioè, tu, i contadini bisogna fare gli operai. La manualità. Adesso bisogna anche ritornare ai campi. Devono ritornare a lavorare ai campi. Assolutamente vero. E in effetti sembra che ci sia già una tendenza dei giovani. Sì. E questo è una cosa che ha sicuramente un lato positivo perché imparano anche dei ritmi che sono quelli secondo natura. Sì, anche perché insomma la campagna sarà che io amo la campagna, l'adoro molto. Proprio per cui Noi non possiamo fare altro che come dire che ringraziare che concludere nostro... perché siamo proprio in fase, è sempre una cosa estremamente piacevole, piacevolissima purtroppo ma... diciamo il ciacco e questo il è fondamentale perché ci ricorda il passato. Sì. Bene, caro Giorgio, la ringraziamo tantissimo e alla prossima. Alla prossima. Grazie volta. A voi invece perché mi sono divertito anche io. E ai nostri ascoltatori diciamo, come sempre, ciao ciao. Ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.